qui con me. Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al re. Saremo uniti col suo sigillo, il suo spirito manderà. Verranno i suoi angeli nella gioia, cielo e terra si toccherà. Sarà più amore di uomo, l'amore di Dio sarà. Venite o genti, sole risplendi, comincia un'eternità. Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me. Oggi in cielo scritta nel mio cuore. Vieni, dammi la tua mano, sposo. Vieni, sposa accanto a me. La mia fedeltà sarà per sempre. Vieni sposo qui con me.